Dialog, la realtà condivisa, di Gianluca Nicoletti. Basta con i pianti post tragedie, post reato, ma bisogna intervenire immediatamente. Fermate il femminicidio, grida il sindaco di Pergola. È un decreto legge molto semplice, molto agile, che però interviene su alcuni temi che riteniamo in questo momento essenziali. In particolare avevamo promesso di svolgere un intervento molto duro, molto forte, di contrasto a tutto ciò che va sotto il nome di femminicidio. Punti fondamentali riguardano sia la prevenzione che la protezione che la punizione, anche la formazione di una diversa cultura dei diritti delle donne. In effetti con questa legge noi intanto poniamo al centro la raccolta dati. Quante volte ci siamo interrogati assieme sul disgustoso reato di violenza nei confronti delle donne, di stalking, di vessazione nei confronti del genere femminile? Quante volte abbiamo analizzato il termine femminicidio, neologismo che è già usurato dall'abuso che ne è stato fatto, che probabilmente poi scomparirà, come le tante parole che segnano un'epoca e poi perdono di significato. Ma alla fine eravamo tutti contenti e soddisfatti, però, perché la prima settimana di agosto il governo ha finalmente, cioè, anzi, il Consiglio dei Ministri ha finalmente approvato il decreto legge che sanciva delle inasprimenti di pena nei confronti di chi attuasse violenza nei confronti delle donne. Quindi quello che ci eravamo auspicati per tante settimane, per tante trasmissioni, per tanti colloqui con gli ascoltatori, per tante opinioni di esperti, cioè che non ci fosse una sufficiente attenzione specifica nei confronti della violenza diffusa, generalizzata, proclamata, macroscopicamente aumentata nei confronti del genere femminile, finalmente avesse avuto uno strumento di contenzione e di repressione. La cosa che ci sorprende è che a distanza di un mese, però, invece che stappare champagne e dire finalmente abbiamo qualcosa che permetterà di arginare questo fenomeno, questo decreto legge sembra che abbia scontentato tutti. Ha scontentato gli avvocati, e naturalmente gli avvocati non possono che essere scontenti nei confronti di qualcosa che riduce i loro a confini di azione, ma ha scontentato persino le donne organizzate, persino gli esiti contemporanei dell'antico movimento femminista, che non sono per niente soddisfatte di questo decreto. Beh, questa mattina vorremmo capire perché, qual è il motivo, cosa è stato fatto di sbagliato. Voi intanto che ascoltate, che avete avuto già possibilità in passato di intervenire su questo problema, vediamo se a distanza di un mese dal decreto avete qualcosa da aggiungere. 800240024. È stato confermato il fermo, quindi resterà in carcere Claudio Grigoletto, che di fatto oggi possiamo dirlo è l'assassino di, secondo gli investigatori e secondo anche il GIP di Brescia, l'assassino di Marilia Rodriguez. È stato il compagno a portarla al pronto soccorso quando si è accorto che le ferite che le aveva provocato erano troppo gravi. Non è servito. Maria Grazia Giummo, 38 anni, è morta per i colpi ricevuti con una bottiglia all'addome e alla testa durante una lite, l'ennesima. Fermate il femminicidio, grida il sindaco di Pergola, un paese sotto shock. In questo piccolo centro abitato delle Marche, in provincia di Pesaro Urbino, che viveva e lavorava Lucia Bellucci, la ragazza trovata morta ieri in Trentino, uccisa con due coltellate dal suo ex fidanzato. Una donna sensibile e dolce. È naturalmente un elenco, poi continua tutti i giorni. Tutti i giorni abbiamo foto di donne che in varie circostanze, in diverse circostanze, comunque sono vittime di violenza. Non so se è cambiata e mutata l'attenzione giornalistica nei confronti del delitto in generale, che specifica un delitto di genere, o se in realtà c'è un aumento, una recrudescenza di delitti, di disattenzioni gravi nei confronti delle donne. Di fatto questa mattina entriamo però in merito al decreto cosiddetto del femminicidio, che poi in realtà contempla un'infinità di altre circostanze, di altre situazioni, lo stalking, il controllo informatico, la violenza attraverso i mezzi informatici e via dicendo, ma così perlomeno è stato definito. Avvocato Valerio Spigarelli, buongiorno. Buongiorno. L'avvocato Valerio Spigarelli è il presidente dell'Unione delle Camere Penali Italiane. che si sono fortemente, crudamente espressi nei confronti di questo decreto. Vediamo di analizzarlo per punti. Il punto di vista, diciamo, delle Unione Camere Penali Italiane è quello che in realtà lo sintetizzo secondo una mia visione, può essere che magari mi sbaglio, lei mi correggerà, di fronte a un'enfasi giornalistica nei confronti di un delitto che in realtà non ha delle fattispecie così differenti dal delitto nei confronti di ogni essere umano, si è agito in maniera forse, non voglio dire un po' demagogica, ma non osservando quelle che poi sono le regole fondamentali del diritto. Vediamo, analizzando nei punti quelli che secondo voi si prestano più a questo tipo di critica. Prima di tutto lo strumento che è stato adottato, la prima cosa, il decreto legge. Il decreto legge si dovrebbe utilizzare in casi di straordinaria urgenza, tanto straordinaria da espropriare il Parlamento dalla possibilità di fare ordinariamente le leggi, quindi di discuterle con certi tempi, e si contingentano questi tempi perché, come lei sa, a seguito del decreto, il decreto deve essere convertito entro 60 giorni, quindi si strozza fatalmente la possibilità. Glielo traduco maliziosamente, c'era una così forte pressione giornalistica che per fare bella figura e far vedere che faccia qualcosa, il governo ha fatto un decreto legge sul femminicidio. No, lei ha tradotto perfettamente quello che è avvenuto in questo caso, ma per la verità con la legislazione penale avviene da 30 anni in moltissimi altri casi. C'è un'emergenza che a volte non è neanche suffragata da dati criminologici, ma è più che altro un'emergenza mediatica. Si pensi ai morti sulla circolazione stradale, piuttosto che... I morti del sabato sera, di cui non si parla più, ma... Esatto. E si fa un decreto legge proprio perché è lo strumento migliore dal punto di vista della propaganda, diciamocelo francamente, per dire stiamo intervenendo su un certo fenomeno che certamente esiste. Però, di fatto, onestamente, avvocato, che qualcosa si faccia di concreto nei confronti della violenza, nei confronti delle donne, è qualcosa che fa piacere a tutti, toglie a tutti un grande peso dallo stomaco, se così fosse in realtà. Sì, ma attenzione, queste sono norme di carattere penale che dovrebbero essere meditate, non spinte dalla necessità della propaganda, perché poi si combinano molto spesso dei grandi guai che non servono neppure per l'obiettivo dichiarato. Ecco, ci faccio degli esempi concreti, così capiamo dove la fretta è stata cattiva consigliera. Le faccio un esempio immediato. Si è introdotta, un aggravante per il delitto di maltrattamenti in famiglia, dicendo, attenzione, se questo delitto, che è un delitto abituale, viene commesso di fronte ad un minore degli anni 18, è aggravato con un significativo aggravamento di pena. Il problema è che il delitto di maltrattamenti in famiglia, quando veniva commesso di fronte ad un minore, già era contemplato dalla legge, quindi si è duplicata una situazione a puri effetti propagandistici, tra l'altro innalzando la soglia tra il minore e l'infraquattordicenne e il minore sic et semplicis, con il che si è creato un bel problema dal punto di vista di coloro che applicheranno questa norma, perché obiettivamente il delitto si sarebbe già configurato nei termini precedenti e oggi invece viene configurato nei termini precedenti e poi anche aggravato. Gli interpreti chissà che cosa combineranno. Si è introdotta una norma che è quella dell'acquisizione delle denunce anonime. E attenzione, questa è una vulnus, noi in termini giuridici, cioè una ferita all'ordinamento complessivo, perché gli anonimi per definizione non devono entrare in una fase di accertamento penale. Figuriamoci in una situazione di crisi matrimoniale, quanto questo potrebbe diventare un'arma pericolosa, che però questo, ripeto, non deve togliere l'attenzione rispetto a chi realmente delinque in questa materia. Non c'è dubbio, però lei tenga conto che se mi accusa un anonimo e io ho veramente poche possibilità di difendermi, perché non so neppure da chi proviene l'accusa, ed è identificare chi, tra virgolette, ti accusa è il minimo possibile, immaginabile per difendersi in maniera... Ecco, andiamo ad altri punti, questo è chiaro, entriamo in una norma... Noi avvocati ci preoccupiamo questo un po' sì, degli imputati, ma attenzione, noi avvocati assistiamo anche le persone offese, Sì. È che facciamo entrambe le cose, quindi quando segnaliamo dei punti che non funzionano lo facciamo nell'interesse di entrambi, non soltanto nell'interesse. Ecco, andiamo avanti nei punti, però ci sono ancora altri punti anche molto più interessanti. Un altro punto estremamente propagandistico: si è detto per questo tipo di reati, così come avviene per reati molto più gravi, sto parlando dei maltrattamenti in famiglia o del tra virgolette stalking, che abbracciano una serie infinita, una gamma di fatti che possono andare da fatti poco gravi a fatti molto gravi, a fatti spia molto gravi, si è introdotta la irrevocabilità della querela. Sai che cosa succederà? Si è detto facciamo l'irrevocabilità della querela perché così una volta proposta la querela la donna o il soggetto debole che sia non potrà essere esposto alle pressioni del colpevole tra virgolette che gli impone di ritirare la querela. Lei pensa, avvocato, che su questa norma, avvocato, ci sono rimaste male? Persino le femministe, le volontarie del telefono rosa, dice ma come? Ci togliete l'autonomia emotiva di cambiare idea se vogliamo cambiare idea? Ma non solo, io le dico di più. Se viene da me una donna, ma ripeto, poi di genere può significare molte cose, comunque una persona esposta a questi fatti, che però rientrano diciamo nella gamma dei fatti meno gravi, ma importanti a denunciarsi perché potrebbero essere la spia di un'escalation che poi diventa qualche cosa di molto significativo. Mi dice quel che avviene, io sono costretto a dirgli, signora, signore, se lei fa la querela è irrevocabile. Mi risponderà, ma quindi non posso poi in nessuna maniera, se la cosa si compone, tornare indietro. No, non posso, benissimo. Non può dare una seconda chance al marito che magari potrebbe, per assurdo, cambiare atteggiamento. Nel 90% dei casi mi dirà benissimo, la saluto avvocato, me ne vado, perché questo strumento così poco duttile per la mia situazione, che ancora non è gravissima, non mi viene bene. Si fermi un attimo, avvocato, è chiaro, si fermi un attimo, sentiamo Alessandro, primo ascoltatore, poi diamo un altro aspetto. Alessandro. Salve. Senta, io diciamo così, non sono un giurista e quindi ovviamente una visione più dell'uomo della strada della problematica, però devo dire che questa attenzione mediatica molto forte, molto pressante sul problema del femminicidio, se da una parte secondo me è importante per quanto riguarda la prevenzione dei maltrattamenti, perché effettivamente l'uomo è avvantaggiato fisicamente nei confronti della donna e questo lo pone in una posizione di forza che giustamente dovrebbe essere sanzionata in modo diverso per quanto riguarda poi appunto quando si va a vie di fatto o psicologico, peggio ancora. Quindi al vale al punto però, Alessandro. Invece per quanto riguarda il femminicidio in sé per sé, essendo un omicidio, non mi sembra una cosa corretta che venga trattato in modo diverso l'omicidio di una donna rispetto all'omicidio di un uomo, nel senso che alla fine sono due cose odiose che dovrebbero essere sanzionate nel modo più severo ambedue e non trattate come se fossero un però questo mi sembra un problema già superato. Se si è fatto un decreto specifico sulla violenza di genere, evidentemente il legislatore ha pensato, al di là poi di tutte le dietrologie che possiamo fare, che esisteva realmente un problema di categoria meno difesa. In effetti a tutti oggettivamente sono categorie più deboli, meno difese, quelle delle donne che subiscono questo tipo di violenza. Lei pensa allo stalking, di cui abbiamo spesso parlato, era difficile o se non impossibile avere degli strumenti concreti per togliere l'ossessiva volontà di perseguitare una donna. Però nella volontà, nello zelo del legislatore, come stiamo vedendo, in realtà non si è molto accontentato anche persino le categorie che si pensava che dovessero essere più soddisfatte. Titti Carano, buongiorno. Buongiorno. Titti Carano è presidente della rete nazionale Dire, Donne in Rete contro la Violenza. Quindi lei rappresenta in qualche maniera la categoria e il genere che dovrebbe essere maggiormente beneficata da questo decreto. Ma in realtà anche voi avete qualcosa da dire, mi sembra di aver capito. Sì, io vorrei specificare che l'Associazione Nazionale Dire rappresenta al momento 63 centri antiviolenza in Italia distribuiti un po' su tutto il territorio nazionale. Beh, non sono pochi, è una realtà significativa, mi sembra. È una realtà molto significativa e abbiamo un osservatorio privilegiato, perché consideri che ogni anno sono più di 15.000 le donne che si rivolgono ai centri antiviolenza. Quindi nessuno meglio di voi sa dirci quali sono i punti deboli e i punti forti? Io ho ascoltato insomma l'intervento precedente e anche dell'ascoltatore. Vorrei soltanto però fare una precisazione prima di entrare nel merito di alcuni punti. Non è un'esigenza mediatica, né tantomeno c'è una, come dire, una spinta in questo senso, cioè vale a dire, la violenza contro le donne è un fenomeno strutturale della nostra società. Oggi c'è una maggiore attenzione sicuramente, quindi bisogna affrontarla e parlarne anche con la consapevolezza che ci troviamo di fronte ad una violazione dei diritti umani, e questo lo dice la Convenzione di Istanbul e tanti altri documenti internazionali sottoscritti anche dall'Italia. Quanti stati hanno aderito alla Convenzione di Istanbul? Al momento mi sembra che siano ancora 6, non sono sicura se però poi ce ne sono aggiunti gli altri, insomma. Quindi è vero che ci troviamo di fronte ad una convenzione che ancora non è, può entrare in vigore, necessita della firma di ulteriori stati, però è importante che l'Italia abbia assunto questa responsabilità, perché è una responsabilità dello Stato far fronte non ad un'emergenza, ad un allarme sociale oppure a un cancan mediatico che si sta verificando. Ma questo mi sembra, guardi, è un tema, mi scusi, è un tema che abbiamo mentalmente già superato. L'ho detto all'inizio perché era una delle ipotesi che facevano gli avvocati, cioè nella fretta di seguire una spinta mediatica forte è stata fatta con leggerezza, perlomeno senza necessaria attenzione, ma è chiaro che è qualcosa di orrendo e incivile il susseguirsi di violenze contro persone inermi, quindi su questo siamo d'accordo. Ma andiamo al punto, vorrei capire cos'è che non funziona secondo voi. Le persone inermi né soggetti deboli, sono soltanto appunto donne che nella loro vita hanno avuto chiaramente incontri che hanno prodotto poi una lesione proprio dei diritti umani. Allora, rientrando poi un po' anche nello specifico e quindi per quanto riguarda l'aggravante al reato di maltrattamenti di cui si è parlato prima, voglio anche specificare che sono tanti i bambini che sono stati uccisi dal genitore maltrattante solo per vendetta nei confronti della donna. E cioè, ci deve essere un'attenzione specifica ai minori in questo tipo di procedimento e quindi ai danni che subiscono. Quindi c'è già una lacuna, non si tiene conto dei minori che potrebbe essere l'esito nefasto delle furie familiari. Questa è una lacuna. Perché d'altra parte la violenza assistita è diciamo riconosciuta nella prassi giudiziaria, ma da una giurisprudenza. Sì, però mi interessa capire i punti, anche far capire chi ci ascolta, che poi non ha gli strumenti di raffinatezza giuridica per capire bene, se non lo ragioniamo per sommi capi. Andiamo dalla irrevocabilità a fronte di una denuncia, di non poterla ritirare, ad esempio. Questo mi sembra uno dei punti in cui anche le donne dicono: noi dobbiamo avere il nostro legittimo diritto di autonomia emotiva, cioè di decidere che poi se vogliamo cambiare idea possiamo cambiare idea, invece qui non si cambia idea. Questo è un punto che condividete o no? Allora guardi, su questo punto bisogna vorrei un attimo specificare meglio, perché irrevocabilità della querela non significa procedibilità d'ufficio, cioè nel senso che la donna comunque ha la possibilità di scegliere quello che può essere il suo percorso anche giudiziario. Nella nostra osservazione nei centri antiviolenza ci rendiamo conto che i tempi delle donne non corrispondono naturalmente a quelli che possono essere i tempi giudiziari. Cioè io immagino una donna, ahimè è cruda l'immagine, con gli occhi pesti e le ossa rotte, che gli viene detto: scegli il tuo percorso giudiziario. No, in questo caso no, in questo caso ecco, ci troviamo di fronte ad un reato grave di maltrattamenti che è già prodecisibile d'ufficio di per sé. Noi dobbiamo pensare a quelli che sono altri casi in cui il reato non è procedibile d'ufficio, insomma, e quindi diventa poi irrevocabile la querela. Il problema è che in questo caso si limita sicuramente l'autodeterminazione della donna. Nello stesso tempo però le donne sono anche molte volte oggetto di pressione, di ricatti, soprattutto quando ci sono i figli di mezzo. In ogni caso è una norma questa che non ci soddisfa per il semplice motivo che la donna vittima di violenza viene lasciata sola, nel senso che non c'è poi una struttura tale da parte dello Stato per affrontare questa situazione, nel senso che non c'è un programma di protezione della vittima che ne tuteli l'incolumità poi dalla denuncia in poi, oppure anche per visti i tempi processuali passa molto tempo la denuncia al momento della soddisfazione, diciamo, dell'esito della sentenza, dell'applicazione della sentenza. E in questo tempo che fanno le donne? Stanno sempre, appunto, cioè ci sono appunto. Stati dei casi qui a Roma di cose abbastanza ridicole, di stalker che continuano a rimanere nelle vicinanze delle loro vittime, addirittura di pedofili che possono stare nello stesso palazzo della persona che di cui hanno abusato. Quindi è abbastanza complicato pensare non ci sia una rete di assistenza. Noi ci fermiamo un attimo, diamo la linea alle informazioni della borsa, però vorrei che la riflessione fosse estesa al nostro pubblico. 800 24 00 24, vedete, ci stiamo perdendo in una difficile mucillaggine di tipo giuridica, ma le donne che tutti i giorni subiscono una violenza, che hanno l'orco in casa o l'orco fuori dalla porta, avranno tempo, voglia e strumenti di serenità e tranquillità per seguire questo percorso così difficile, su cui noi stiamo, confesso, arrancando questa mattina? Sentiamo tra poco, dopo le informazioni della borsa. Melog, la realtà condivisa. Una morte annunciata da almeno 2 anni. Benedetto Conti, l'uomo che questa mattina ha ucciso a Palermo la sua ex convivente Rosy Bonanno di 25 anni, era stato segnalato alla polizia e agli assistenti sociali dai familiari della donna, che vivevano nel terrore. Avevano paura di quell'uomo violento che non si rassegnava alla fine della relazione con Rosy. È indagato per omicidio volontario e occultamento di cadavere. Per gli inquirenti avrebbe ucciso la fidanzata Silvia Caramazza con un colpo alla testa. Il corpo della donna, di 39 anni, è stato trovato giovedì nascosto dentro ad un congelatore nella sua camera da letto. Il 19 giugno un'amica aveva fatto... La cosa singolare, visto che stamattina stiamo parlando di delitti specifici contro le donne, che gran parte di questi uomini che hanno compiuto orribili delitti nei confronti delle loro compagne perché le avevano abbandonate, hanno osato interrompere il rapporto, non è che fossero persone ignoranti. Si parla di professionisti, si parla anche di avvocati. Giorni fa abbiamo visto il volto restaurato di una bella ragazza il cui ex fidanzato, un avvocato, aveva stabilito che fosse sfregiata con l'acido. Quindi non è che c'è una non conoscenza delle leggi, dei regolamenti. È molto difficile pensare che i colpevoli di questo reato siano soltanto dei bruti, le persone ai margini della società, degli ignoranti. No, sono, ahimè, persone perfettamente normali, persone come noi. La maggior parte dei delitti nei confronti delle categorie più deboli, indifese, vengono fatte da persone apparentemente normalissime, anzi spesso socialmente stimate. Massimo Lattanzi, buongiorno. Buongiorno a voi. Massimo Lattanzi ci riporta alla cruda realtà. È psicologo, psicoterapeuta, fondatore dell'Associazione Italiana di Psicologia e Criminologia, coordinatore dell'Osservatorio Nazionale sullo Stalking. Abbiamo chiamato più volte Lattanzi a parlarci dei casi concreti. A distanza di un mese dal decreto sul femminicidio, hai visto cambiamenti, mutamenti? Le persone che tu hai in osservazione hanno dato segnali di sollievo oppure sono ancora di più ingarbugliate nella possibilità di capire e comprendere le norme che dovrebbero salvaguardarle? Bene, precisa la tua domanda, perché sul versante presunte vittime c'è una grandissima confusione. Calcola che noi ad agosto siamo restati liberi e aperti, abbiamo ricevuto una miriade di telefonate, tutto per capire ma come funziona, cosa cambia nella legislatura, cosa mi succede, cosa devo fare. Quindi Lattanzi, le stesse persone ti chiamavano per dire oggi mi ha picchiato, mi perseguita, ti chiamano per dire mi aiuti a decifrare la legge. Esatto, ma cosa è cambiato, cosa cambia per me, cosa mi costa, cosa devo fare? Però dobbiamo dire anche una cosa per precisione, che hanno chiesto tantissime consulenze, dopodiché poi noi quando chiedevamo siete disposti a fare una denuncia, penso il 60-70% diceva che voleva rifletterci e che non avrebbe portato avanti la situazione. Come ci diceva l'avvocato Spigarelli, che alla fine, di fronte al fatto che la denuncia poi sarebbe reversibile, molti ci pensano 2 volte. Assolutamente sì, e sul versante presunti autori, perché come sapete noi ci occupiamo di entrambe le facce della medaglia, invece c'è stata una sorta di irrequietezza, insomma una sorta di rabbia, dicendo ma allora che cosa significa se lei mi denuncia e poi magari le prove non ci sono, io che cosa faccio? Mi rovino la vita per sempre? E dal loro versante c'è una cioè non mi posso paura. Nemmeno pentire e capire che ho sbagliato e tornare indietro, esatto, perché comunque sono processato. Esatto, anche c'è una sorta di resistenza anche a continuare il percorso, perché loro mi dicono io voglio tentare di comprendere. Tu parli di stalker, tu hai stalker sotto osservazione, stalker, che ricondizioni diciamo a un comportamento normale, almeno ci provi, ecco. Assolutamente sì, almeno che possano accettare meglio una separazione o un abbandono, e come dicevate voi benissimo abbiamo tanti professionisti, quindi basta pensare ad un mostro, il mostro è quello della porta accanto o di casa nostra, in questo caso il 90% sono persone conosciute, parenti o familiari, questo è importante, e quindi io mi permetto dal nostro osservatorio di dire a coloro che stanno mettendo mano a questa legge di fare un attimo, pensare, fare un attimo di riflessione, perché sinceramente ad oggi sul campo, ascoltando le persone che hanno subito e che agiscono, questa legge non sembrerebbe aggiungere nulla, ma secondo me solo tanta confusione. Fermo lì Lattanzi, non ti muovere. Avvocato Valerio Spegarelli, ricordo Presidente dell'Unione delle Camere Penali Italiane, siamo partiti da lei analizzando nello specifico le norme, ci siamo un po' riempiti di confusione perché è difficile, la materia è difficile da contenere, però Lattanzi che da una vita osserva sia vittime che aguzzini nel campo dello stalking e della violenza, conferma più o meno quello che dite voi. Sì, perché vede, il problema fondamentale è che alcune cose sono realmente, oltre che propagandistiche, illogiche. E tenga conto che per un reato grave come lo stalking si è prevista un'aggravante se viene commesso attraverso strumenti informatici, che era una modalità di commissione dello stalking naturalmente, no? Perché si può assillare una persona attraverso questi strumenti. E oggi siamo al paradosso. Uno smartphone è uno strumento informatico o viene classificato come classico telefono? Dice la norma strumenti informatici o telematici potrebbe rientrare, ma attenzione, lei riflette... No, perché dipende, se mando un sms è strumento tradizionale, ma se uso una chat magari diventa informatico lo stesso strumento. Sì, ma sì, sentire, il problema è questo, è aggravato, quindi è più grave questo, rispetto al fatto che sia invece fisicamente fatta la stessa cosa. Potrebbe essere quasi il contrario. Cioè un cazzotto vale meno di un sms? No, il cazzotto è cosa diversa, ma cioè se lo stalker assilla perché fisicamente si mette diciamo a 50 centimetri come cioè fanno, la fiatata sul collo fastidiosa vale meno di un sms? Vale meno di questo, e questo è un punto. Un altro punto assolutamente paradossale, io penso che si convenga, si dà la possibilità di un allontanamento da parte della polizia, poi convalidato dal PM e dal giudice, nell'immediatezza del coniuge, uno dei due, che generalmente sono uomini naturalmente, che commette fatti di questo genere, dando un potere alla polizia che va al di là di quello che in quel contesto possono però mi scusi avvocato, se mio marito mi sta menando è giusto che i poliziotti lo portino? Ma se mio marito la sta menando non c'è bisogno di questa legge per interrompere quel reato, perché quello è un altro reato. Stiamo parlando, vedete qua c'è una confusione. No, mi spieghi bene, io ammetto la mia confusione. Giustamente prima le stava dicendo la dottoressa che interveniva prima, attenzione, ma se c'è un fatto di violenza con delle lesioni gravissime, non è una questione di irrevocabilità della querela, è già perseguibile d'ufficio quel reato. Quindi nel campo della violenza psicologica, della pressione psicologica. Specifici reati che sono il maltrattamento, lo stalking e delle aggravanti previste anche per i casi di violenza sessuale. Si faceva riferimento alla Convenzione di Istanbul, giustamente, e infatti la Convenzione di Istanbul prevede l'irrevocabilità della querela per fatti come la violenza sessuale, la mutilazione genitale femminile, ma non a caso non per quei fatti che sono stati invece toccati dalla nostra normativa sull'irrevocabilità. Allora le faccio un'altra domanda, ad esempio la norma che assegna il diritto a un permesso di soggiorno alla vittima, immagino straniera, che denuncia un caso di violenza, non ha dei margini anche questa di perplessità? Ovvio che sì, perché e l'abbiamo sperimentato per tutte le altre norme omologhe a questa, cioè la legislazione tra virgolette cosiddetta premiale, che dovrebbe servire a portare ad emersione quello che non emerge di suo naturalmente in certi contesti. Abbiamo visto che questo tipo di cose, è successo sulla prostituzione, è successo in altri campi, producono una montagna di denunce strumentali proprio per lucrare questo vantaggio del permesso di soggiorno per motivi di giustizia. Quella è un'altra norma da un certo punto di vista addirittura che crea confusione nell'accertamento giudiziario. Ma attenzione, questo non perché si voglia minimizzare il fenomeno c'è, così come c'è però l'errore nel manico, oserei dire, di ritenere che certe fenomenologie sociali si governino essenzialmente attraverso lo strumento penale. Ahimè, sono altri gli strumenti che possono e debbono giustamente cambiare un atteggiamento. Lei ha ragione, avvocato, noi lo ripetiamo continuamente perché vogliamo avere, non vogliamo essere fraintesi, ma è un problema di cultura. Finché ancora ci si farà l'occhiolino, ci si darà di gomito, si dirà ma su dai, in fondo te la sei cercata, ma in fondo che vuoi, ma in fondo si sa, ma in fondo, ecco, questo era il vero problema. Ma certo non è che il legislatore può agire in questo campo. Fermi però, un attimo solo, avvocato, si parla di femminicidio, ma attenzione, sì, questa normativa col femminicidio, cioè con l'omicidio di una donna, non c'ha nulla a che vedere, riguarda altri reati che dovrebbero essere reati spia. Ma questa confusione semantica è significativa di come questo intervento è stato utilizzato. Sì, ma parte da un problema di base, che il termine femminicidio era un termine abietto che non andava nemmeno preso sul serio, questo è il fatto vero. Andava specificato che vogliamo fare delle azioni concrete nei confronti della violenza, della sopraffazione, del sopruso nei confronti delle donne, ma non inventarsi femminicidio, che è un termine che in sé non dice nulla. Michele, un attimo, Michele, buongiorno. Buongiorno, io chiamavo perché secondo me differenziare il genere rispetto maschi contro femmine fondamentalmente è sbagliato, perché cioè, è vero che è possibile per l'uomo interrompere la violenza, diciamo, subita all'interno della famiglia, è possibile per l'uomo diciamo sopraffare. Vada al punto, parli di se stesso, non esprima teoria. Ah, cioè, sì. No, sì, mi scusi, perché io non ho denunciato un fatto di stalking che avevo all'interno della famiglia, perché ho deciso così. Ma lei è stato stalkizzato da chi? Dalla mia ex compagna. Ma cosa li faceva in concreto? Sì, capiamo anche l'entità. Okay. Sì, certo. In concreto, praticamente, per esempio, sono telefonate durante la notte. Noi non abitavamo già più insieme, perché quando me ne sono andato, vabbè, di casa, la tartassava con mezzi telefonici, sì, informatici, diciamo, questo. Lei non aveva... Io me ne sono andato perché subivo delle violenze psicologiche all'interno della famiglia quando vivevamo assieme, perché lei era molto gelosa di... Vabbè, era... questo capita, ci ha insegnato più volte Lattanzi, sì, che ormai le percentuali di stalking si stanno equamente distribuendo nei due generi, questo ci fa piacere, esatto, così almeno vale per tutti. Poi la cosa che volevo sapere, velocemente, mai mi risponde Titti Carrano, che è anche avvocato, presidente della Rete Nazionale Dire, ma in un caso come questo signore per assurdo potrebbe chiedere l'applicazione delle norme del femminicidio sullo stalking che subisce da una donna? Allora, guardi, innanzitutto io vorrei ritornare sul fatto che non è assolutamente una spinta propagandistica, ma tutto si fonda su dati concreti. Sì, ma abbiamo detto questo siamo con... No, lo voglio ribadire. Nello stesso tempo il termine femminicidio ha un valore culturale profondo, perché quando la donna viene uccisa in questi casi... Però mi consente punti di vista divergenti. Al genere. Avvocato, mi consente punti di vista divergenti, almeno sull'aspetto semantico. Poi... Rispondo alla domanda: la legge sullo stalking è una legge che è rivolta a tutti, uomini e donne, quindi se gli uomini hanno problemi sono vittime di stalking, possono chiaramente utilizzare uno strumento legislativo che è per tutti, non è soltanto per le donne. Però insomma, io qui vorrei un attimo, come dire, fare alcune specificazioni, mi permetta. Sì, allora, mi permetta, avvocato, devo dare la linea del traffico. Melog, la realtà condivisa. 800240024, oggi parliamo del decreto che dovrebbe in qualche maniera regolamentare e dare strumenti di repressione più sicuri nei confronti della violenza verso le categorie deboli, in primis delle donne. Ho interrotto l'avvocato Titti Carrano, che è presidente della Rete Nazionale Dire, Donne in Rete contro la Violenza. Ecco, riprendiamo il filo dove avevamo lasciato Titti Carrano. Sì, dicevo che il discorso dell'importanza, diciamo, dei centri antiviolenza, perché io vorrei anche lanciare un messaggio alle donne che ci ascoltano e che sono vittime di violenza. È importante la presenza dei centri antiviolenza perché sono in effetti la risposta a tutto questo e a tutti i problemi che le donne poi incontrano, che non è soltanto di un discorso tipicamente repressivo, perché la violenza contro le donne non può essere affrontata solo con interventi repressivi. Su questo siamo tutti d'accordo dall'inizio. Esatto, culturali. Un punto del decreto legge che ci lascia completamente insoddisfatte è proprio l'articolo 5 di questo decreto, dove prevede un piano straordinario contro la violenza sessuale e di genere. Non abbiamo bisogno di un piano straordinario perché c'è già un piano ordinario, è uno strumento ordinario che ogni paese ha. Il nostro è in scadenza a novembre 2013, quindi ci aspettiamo che venga rinnovato. Già basterebbe quello, che diano attenzione a quello che voi già fate, questo lei in sintesi. È un'attenzione a quello che noi già facciamo, perché chiaramente è un... Ma voi cosa servirebbe? Fondi, attenzione concreta, cosa vi servirebbe perché possiate continuare, diciamo, nel rinnovo di questo impegno a procedere in maniera concreta? Di cosa avete bisogno che non avete visto contemplato nel decreto? Ecco. Allora, innanzitutto ci sarebbe bisogno chiaramente di un profondo riconoscimento culturale del fenomeno, perché questa è la base di partenza per poter avere poi delle modifiche o dei miglioramenti. E come si fa questo? Come si ottiene il riconoscimento? Questo lo si fa con politiche di formazione, sensibilizzazione, prevenzione, non soltanto con norme repressive, e in più è necessario prevedere anche una responsabilità forte dello Stato con stanziamento di fondi adeguati, perché per esempio questo decreto legge, l'articolo 5, prevede una serie di attività e di obiettivi che sono sicuramente condivisibili, perché si parla appunto di formazione, sensibilizzazione, ma non eccetera, dice dove va a prendere i soldi però, per finanziare. Esatto, nel senso che è previsto si fa riferimento al fondo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che è già un fondo che ha scarsissime risorse, e in più non ci devono essere nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Quindi questo significa che sono attività e obiettivi che difficilmente potranno essere realizzati se non c'è un investimento. Quindi, l'onere ci sarà, perché se si cominciano a mettere in carcere gli stalker, i molestatori, tutto, si aumenterà anche il problema della popolazione carceraria. Un attimo solo, Federica. Salve, io volevo portare la mia, diciamo, triste esperienza, perché io praticamente sono stata molestata telefonicamente per diversi mesi da una persona che praticamente si masturbava al telefono. Ma lo conosceva lei? No, cioè meglio per lui che non lo conoscevo. Ascoltava solo i singulti e basta. E beh, come ha risolto il problema? Ho risolto praticamente che ho fatto denuncia, ma la cosa bella è che grazie alla procura, che ci ha messo solamente 3 anni per decidere se mandare questa cosa a processo o nel meno. Nel frattempo sarà diventato cieco questo qua. A forza. Esatto. Cosa? No, dico, sarà diventato cieco in 3 anni questo, se continuava per me 3 anni. Me lo auguro, almeno quello me lo auguro, però spero che non prenda la pensione d'invalidità. No, comunque, insomma, io praticamente adesso rischio solamente che lui non ha nessuna conseguenza da quello che giuridica, ha fatto dal punto a me e ad altre donne, perché noi eravamo in 3 che l'abbiamo denunciato. Quindi era uno compulsivo, era una persona che sarebbe avuto bisogno di aiuto anche di tipo psichiatrico, perché qua non si tratta di... No, perché infatti la polizia postale ci disse, che almeno a me disse, che era una persona recidiva. Io devo dire, la polizia postale praticamente in neanche un mese aveva scoperto nome, cognome e tutto quanto, ma siccome la procuratrice se ne andò per 3 volte di seguito in maternità e la procura intelligentemente non ha messo nessun nessuno a sostituire, noi semplicemente rischiamo la prescrizione, punto a capo. Oltre che ma lei poi, cosa vorrebbe nei confronti di questo signore? Un risarcimento. Perché comunque risarcimento, no, la rovinate per dei mesi. No, no, certo, ma mi sembra logico. Solo per anche 20 volte al giorno, voglio dire, che poi sì. Non è che sempre si masturbava, anche perché io gli prendevo la chiamata e chiudevo. No, anche perché la natura ha un limite, 20 volte al giorno. Vabbè, ho capito. Poi tra l'altro, insomma, era pure una persona che non aveva veramente nulla da fare nella vita. Ah, probabilmente. No, ma questo però adesso noi la prendiamo. Ci scherziamo su perché è una cosa vedo passata e lei pure la prende sì, con leggerezza. Io la prendo anche abbastanza. Ma è un vero dramma. No, ma è un vero dramma. Io perché non ho avuto effettivamente nessuna violenza, però se io avessi avuto una violenza vera, qual è la risposta della giustizia? È molto chiaro. 6 anni per decidere di andare a processo e poi dopo una probabile prescrizione. Federica, no, ci fermiamo qua. Stiamo parlando di un problema molto vasto. Abbiamo compreso il suo caso, c'è chiaro. Marina Bacciconi, concludo con lei. L'abbiamo chiamata già altre volte a parlare di questo argomento, la responsabile dell'Osservatorio Nazionale Violenze Domestiche. Vediamo se nei 2 minuti di conclusione. No, non c'è 2 minuti. Niente, abbiamo concluso. Una battuta riesce a farla? Sì, dai, stringo in maniera molto veloce. Dunque, intanto sono d'accordo con tutte le quello che ho sentito di coloro che sono intervenuti. Il termine femminicidio di per sé non ha nessun significato. Esiste un omicidio, o se no parliamo di viricidio o di femminicidio, ma sono due cose diverse. Il discorso è questo. Io credo che una violenza sia comunque una forma di violazione dei diritti umani. E quindi come tale non capisco perché, parlo su dati, voglio dire. Sì, la sigla però ci dice, guardi, facciamo così, se no è brutto essere segati. Riprendiamo l'argomento quanto prima e lei sarà la prima a parlare, se no sembra brutto. Sì, no, non sono d'accordo.